Vangelo di San Luca, capitolo tredicesimo. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici. E Gesù, rispondendo, disse loro: «Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete». Disse pure questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, e andò a cercarvi del frutto, e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: «Ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico, e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno». Ma l'altro rispondendogli disse: «Signore, lascialo ancora quest'anno, finch'io l'abbia scalzato e concimato, e forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai». Or egli stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata ed incapace di raddrizzarsi in alcun modo. E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». E pose le mani su lei, ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il Dio. Ora il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatto una guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine: «Ci sono 6 giorni nei quali s'ha da lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato». Ma il Signore gli rispose e disse: «Ipocriti! Non scioglie ciascun di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarlo a bere? E costei che è figliuola di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi, e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Diceva dunque: «A che è simile il regno di Dio, e in che l'assomiglierò io? Esso è simile ad un granel di senapa che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, ed è cresciuto, ed è divenuto albero, e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami». E di nuovo disse: «A che assomiglierò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 staia di farina, finché tutta sia lievitata». Ed egli attraversava man mano le città ed i villaggi, insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. E un tale gli disse: «Signore, son pochi i salvati?» Ed egli disse loro: «Sforzatevi d'entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno d'entrare e non potranno. Da che il padrone di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare alla porta dicendo: "Signore, aprici!" Egli rispondendo vi dirà: "Io non so donde voi siate". Allora comincerete a dire: "Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze". Ed egli dirà: "Io vi dico che non so donde voi siate, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. E ne verranno d'Oriente, e d'Occidente, e da Settentrione, e da Mezzogiorno, e si porranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno i primi, e dei primi che saranno ultimi». In quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene di qui, perché Erode ti vuol far morire». Ed egli disse loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io caccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno giungo al mio termine. D'altronde bisogna che io cammini oggi e domani e postdomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, e io vi dico che non mi vedrete più, finché venga il giorno che diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore».